Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mantenere quella promessa significava finire tutto entro massimo il mese di ottobre, ovvero 5 mesi dopo, di cui solo 3 utili per sostenere gli esami. Ci riflettei e decisi, senza dubbi, io ci provo. Sono Gianni, ho 28 anni, sono di Sassari, di mestiere sono un impiegato presso la pubblica amministrazione, amo lo sport e la musica. La storia è questa qua. Scheherazade era la figlia maggiore del Gran Visir, che si dà volontariamente sposa al re persiano, che di fatto, siccome è stato tradito dalla moglie, uccide tutte le sue mogli dopo la prima notte di nozze. E lei decide di fare questa piccola cosa in più, di raccontargli una storia, che però non finisce. Che dice, arriviamo fino a qua, domani ti racconto il resto. Poi ne attacca un altro pezzo, arriviamo fino a qua, domani ti racconto il resto. Questa è la storia delle Mille e Una Notte. Stamattina ero al Politecnico di Milano a fare un incontro con gli studenti e cercavo di spiegare loro, cercavo un esempio per raccontare perché raccontare storie è di vitale importanza. E in un attimo è venuta in mente questa storia qua, che avevo sentito qualcuno, ovviamente più bravo e più capace di me, dire che le Mille e Una Notte rappresentano l'importanza del raccontare storie per la sopravvivenza dell'essere umano. Qualche tempo fa avevamo anche raccontato che sulle scialuppe di salvataggio, oltre a tutto il necessario per la sopravvivenza, danno dei consigli, che sono: uno è cantare canzoni ai naufraghi per mantenersi su di morale, e l'altro è, se non si è soli, ma anche se si è soli, raccontarsi storie, raccontarsi delle storie in continuazione, perché come dice Valerio Massimo Manfredi, che è un autore insomma best seller totale, ha venduto 16 milioni di copie di libri, insomma in Italia è uno di quelli che vende di più, gli ho sentito dire questa frase: la nostra mente è troppo larga, è troppo ampia per contenere una vita sola, ed è per questo che abbiamo bisogno di sentire storie, di leggerle, ma soprattutto di raccontarle. Voi siete qui, @radio24.it, se avete voglia di raccontare la vostra storia, un episodio molto semplice, una pagina, qualcosa che vi sia realmente accaduto, per ampliare questa sorta di grande Mille e Una Notte che è questo programma. Voi siete qui, sono le 16:11, questa è Radio 24, il programma, come vi dicevo, e voi siete qui, e oggi, come facciamo sempre, raccontiamo una storia, forse anche per cercare di resistere e di sopravvivere. La storia di oggi è una storia molto semplice, al punto che quando l'abbiamo letta, quando l'abbiamo scelta, a me è venuto in mente un titolo che vuole dire tutto, vuol dire nulla, che però mi sembrava perfetto per questa puntata. La vita è un progetto semplice. Il progetto di Gianni e della sua fidanzata Alida, infatti, sembra semplice all'apparenza. Sembra semplice perché lui ce lo racconta in maniera lineare e di fatto l'ha già realizzato, questo progetto. Però in realtà non è mai così semplice come sembra, e la sua storia ce lo racconta. 349-238-6666. Il racconto di Gianni, però, e poi vi racconto la storia, è anche una sorta di omaggio a una persona che l'ha aiutato a rompere dei limiti, a rompere i suoi limiti e andare oltre. Cioè lui non pensava che sarebbe mai stato in grado di fare la cosa che ha fatto, e invece grazie a lei, grazie ad Alida, ci è riuscito. Se vi viene in mente una persona adesso, nei prossimi 30 secondi, che vi ha aiutato a fare questo, che vi ha aiutato a capire che i vostri limiti o erano solo nella vostra testa oppure potevate passarli, 349-238-6666, oppure il profilo Facebook e il profilo Twitter. Però state lì, è semplice ma è precisissima la storia di Gianni. Era maggio 2007, il più classico dei maggi sardi. Sembrava estate inoltrata. La mia fidanzata si era laureata 6 mesi prima e aveva scelto, dopo attente valutazioni, di proseguire gli studi fuori Sardegna, precisamente a Torino. «Ma non fa troppo freddo lì?» le chiesi quando mi ufficializzò la sua decisione. Glielo chiese in realtà la parte più isolana di me, quella per cui andare nel resto d'Italia significa andare in continente. Ma la parte più saggia, quella che ragionava per il suo bene, in realtà non aveva dubbi sul fatto che fosse la scelta giusta, la scelta migliore per lei. Tuttavia, non nascondo la mia preoccupazione di allora. La nostra storia avrebbe potuto risentirne. Eravamo solo da 3 anni insieme, ma non avevo nessun dubbio sul fatto che sarebbe stata lei la donna della mia vita. Non riuscivo ad immaginare niente di meglio. Quindi, Dopo essermi ripreso dallo shock di quella notizia, non ebbi un istante di esitazione nel dirle: «Ok, tu inizia ad andare, poi ti raggiungo lì». Anch'io allora ero uno studente universitario. A dire la verità, negli anni precedenti, nella mia anonima carriera scolastica, non avevo mai brillato in passione per i libri. Non ricordo una giornata in cui avessi detto: «Stasera non si esce, che devo studiare». Ricordo quando, 3 anni prima di quel maggio, finalmente e nonostante tutto, stavo per finire la scuola. Con un anno di ritardo, ok, ma ormai mancava poco. Ecco, in quel momento per nulla avevo in mente di iscrivermi a un'università. Era l'ultimo dei miei pensieri. Io mi vedevo con addosso la divisa dei Vigili del Fuoco, affascinato dalla figura di un mio zio, allora caposquadra. Ed è proprio in quel periodo, qualche mese prima per la precisione, che conobbi Alida. Alida è una ragazza, che dico sempre, nella botte piccola ci sta il vino buono. Ecco, lei è il classico esempio di questo proverbio, perché è una ragazza magra, piccola, io dico sempre tascabile per prenderla in giro, però dentro questo corpo tascabile c'è dentro un uragano di energia e di forza. Mi ricordo la prima volta che le dissi della mia passione per la carriera paramilitare nei Vigili del Fuoco. Mi rispose con un glaciale: «Ma sei impazzito?». Mi fece ragionare non tanto sulla professione in sé, assolutamente rispettabile anche per lei, quanto su come al giorno d'oggi sia irrinunciabile possedere una laurea per essere qualcuno nel mercato del lavoro, in qualsiasi settore o segmento. Non che non ammettessi la sua ragione, è che proprio non ne avevo voglia. Lei frequentava l'università già da un anno, e solo a pensare di sbattere la testa su quei libri dalle dimensioni e peso di un laterizio che le vedevo sfogliare e studiare con fatica, mi veniva il mal di pancia. Ma Alida, caparbia qual è, non si arrese. E alla fine riuscì ad aprirmi la mente fino alla fine, e nel 2004 mi iscrissi all'università. E credetemi, nessuno avrebbe scommesso un euro su di me. Nessuno, tranne me e Alida. Diventai ufficialmente uno studente universitario con tanta carica e voglia di dimostrare a tutti, me compreso, che non ero quello svogliato della scuola. Ma torniamo a quel maggio 2007 e a quel «poi ti raggiungo lì». Era una promessa molto impegnativa. Mi mancavano 7 esami alla fine della laurea triennale, sostanzialmente un anno accademico. Poi ovviamente la tesi, che è un impegno almeno alla pari di un esame. Mantenere quella promessa significava finire tutto entro, al massimo, il mese di ottobre, ovvero 5 mesi dopo, di cui solo 3 per sostenere gli esami. Il consiglio di Alida fu come al solito il più saggio: «Se te la senti, provaci». Ci riflettei in realtà molto poco e decisi senza dubbi: «Ok, io ci provo». Mi ricordo quando raccontai tutto al mio principale e anche amico di studi. Mi disse: «Stai attento, perché così rischi di fare un polverone per niente e arrivare a settembre punto a capo, allungando i tempi anziché accorciarli». Presi tutti i corsi di laurea specialistica dell'Università di Torino attinente alla mia triennale in economia e scelsi quello che mi ispirava di più, che per dovere di cronaca fu quello in statistica economica. Sono da sempre affascinato dai numeri. L'importante però era raggiungerla. Ricordo come fosse oggi quando presi un foglio bianco e di getto scrissi a penna una sorta di contratto con me stesso. Appuntai l'elenco degli esami e le date utili per raggiungere quell'obiettivo. Data e firma, come fosse un atto ufficiale, e lo appesi al muro della mia camera. Ero ancora indeciso se buttarmi su questo obiettivo, diciamo, oppure no. Per ricordarmi di cosa mi avevo promesso, ho preso un foglio di carta, una penna, mi sono appuntato tutte le date degli esami futuri, ci ho messo una firma come se fossi dal notaio e l'ho appeso nella mia bacheca di camera. Da allora sparii dalla circolazione. Chiamai amici e parenti e dissi loro: «Fino a settembre nessuno mi cerchi, fate finta che sia emigrato in Australia». Esisteva solo lavorare per riuscire nell'impresa, perché Alida mi mancava troppo e non potevo permettermi di perderla. Non voglio stare a raccontare passo passo cosa è successo, ma sta di fatto che incredibilmente ce l'ho fatta. Non so bene come, addirittura in anticipo rispetto al contratto firmato. Quando diedi l'ultimo esame, infatti, era luglio e non settembre. E mi ricordo che urlai a gran voce: ce l'ho fatta. 7 esami in 2 mesi. I miei colleghi rimasero sconvolti. Per un po' di tempo rimasi sulla bocca di tutta la facoltà. Forse per qualcuno può apparire non un'impresa particolare. Per me però, in quel momento, lo era. E come se lo era. Il 24 settembre del 2007, con oltre un mese di anticipo rispetto alla tabella di marcia prefissata, avevo in tasca la laurea e nell'altra un biglietto di sola andata per Torino, per il giorno successivo, dove mi aspettava Alida, la meno incredula di tutti per il mio risultato. Quello fu uno dei periodi più belli della mia vita. Ora, dopo anni, posso dire che ne valsa la pena. Dopo tanti sacrifici siamo riusciti a terminare entrambi gli studi e dopo varie vicissitudini lavorative, ormai comuni per la mia generazione, siamo riusciti anche a tornare entrambi in Sardegna, dove a 28 anni lavoriamo e a breve ci sposeremo. Accordami i polsi, che da un po' che non scrivo più, o almeno invitami per un tè. Lo so che magari la tua camera è in disordine, come i miei capelli quando perdo il tram. Credo sia in ufficio Gianni nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina. Voi siete qui come ogni giorno insieme alla storia, chiediamo di mandarci una fotografia, un ritratto della persona che è l'autore e il protagonista di quella storia, perché abbiamo la sensazione che si possa capire qualcosa da quella foto. Quello che capisco è semplicemente che Gianni è in ufficio, da buon sardo ha su una maglietta che mi sembra quella del Cagliari e sarà per quello, ma ha la faccia da terzino destro. Pronto Gianni? Ciao Matteo. Sei un terzino destro? Lo sono stato. Vedi che c'era qualcosa. Tra l'altro non terzino e basta, sinistro, destro, proprio destro. Essendo stato un vecchio terzino destro so cosa significa. E quindi un pochettino hai una faccia, le nostre facce si assomigliano evidentemente. Come stai Gianni? Tutto bene, grazie. Tu? Benone, ti ringrazio. Io volevo ricordare una cosa, che Gianni ha scritto a Margherita, ma ha scritto a noi questa mail. Ho riletto la storia che vi ho scritto a giugno. Giusto, ce l'avevi mandata a giugno Gianni? Sì, esatto. Ci sono due aggiornamenti. Uno, abbiamo 29 e non più 28 anni, e fino a lì va bene. Ma due, nel frattempo abbiamo una casa tutta nostra. Esatto, sì. Nel frattempo stiamo aspettando che arrivino i mobili per poterci trasferire. E quindi niente, abbiamo raggiunto un altro sogno, ecco. Gianni, io guarda, mi sono innamorato della tua storia perché... Tu da quando attacchi il tuo racconto fino alla fine, e adesso me lo confermi, vai proprio dritto, cioè non hai nessun dubbio riguardo sostanzialmente all'amore nei confronti di Alida, che a questo punto tutti noi vogliamo conoscere, è lì con te, no? No, non è con me, ma ci sta ascoltando. Vabbè, allora la salutiamo. Nel senso che questa donna che è un po' musa, un po' faro, un po' futura moglie anche, semplicemente, mi viene da dire, è come se ti illuminasse la strada dritta di fronte a te. È una cosa straordinaria questa, lo dico seriamente. No, sì, non posso far altro che confermare quello che hai detto. Nel senso che io dal primo giorno che l'ho conosciuta fino a oggi... spero e credo fino a per sempre, è entrata nella mia vita proprio di prepotenza e non c'è uscita. Ecco. Tra l'altro Gianni, la tua storia, la tua precedente storia da studente non proprio brillante, dà fiducia a Pietro che al 349-238-6666 ci scrive, Mauro, allora c'è speranza anche per mio figlio, 16 anni, gentile, educato, sveglio, ma campione olimpico di fancazzismo. Diciamo che c'è una speranza per tutti grazie alla tua storia in qualche modo Gianni. Assolutamente sì, e confermo che io ero, cioè, se me l'avessero detto al momento in cui stavo prendendo il diploma, cioè, avrei preso veramente per matto colui che mi ha detto la mia laurea. Futuro. Tra l'altro noi tutti in redazione ci siamo veramente eccitati tantissimo quando abbiamo letto di questo tuo grido liberatorio, ce l'ho fatta, che sinceramente Gianni ci ricorda un pochettino quello di Rocky. Adriana! Signore e signori, ho ricevuto... Rocky! Cioè, noi vogliamo immaginarti così, capito? Su un ring con Alida che ti vede da lontano, tutti gli altri increduli e tu che la guardi, e lei ovviamente già ti guarda come dire: tranquillo, io lo sapevo che ce l'avresti fatta. Confortante come solo Alida sa essere. Esatto, guarda, sono scioccato perché hai beccato un'immagine che abbiamo evocato 100.000 volte tra di noi. Perché Rocky, perché penso che l'abbia visto, non so, centinaia di volte, l'ho costretta a vedere. L'hai costretta a vederlo? Sì, immagino. Lei mi ha sempre detto che ero Rocky dipendente, e tu adesso me lo stai confermando. Senti, poi c'è un'altra cosa della tua storia che mi piace tantissimo, è il contratto con te stesso. Questa roba è una roba che fai veramente un baffo a Silvio Berlusconi, cioè tu ti sei messo lì senza telecamera, senza Bruno Vespa, senza spettatori, e hai detto: allora adesso mi metto qui, aspetta un attimo, segno sta roba, voilà, e me la firmo anche. Toh, Gianni, mi raccomando. Esatto, è proprio così. Ce l'hai ancora quel contratto? Ce l'hai ancora da qualche parte? Credo che ci sia ancora, sì, poi da allora mi sono cambiato casa, insomma, non l'ho strappato, però credo che esista ancora, e mi ricordo la faccia di mia madre, perché allora abitavo ancora a casa dei miei, e mia madre, la prima volta che l'ha vista, ha detto: ma Gianni, ma cos'è quel foglio che hai messo lì in stanza? Lascia stare, il mio programma degli esami, fatti i tuoi. Senti Gianni, a questo punto, visto che tu, permettimelo, tutte e due in realtà, siete non ancora trentenni, abbastanza anomali, nel senso che avete le idee molto chiare, avete un lavoro, avete una casa e state per sposarvi. So che è una roba che può sembrare banale, però tu ce la farai, Gianni. Tu che cosa diresti alle persone della tua età che ti stanno ascoltando oggi, 23 ottobre 2013? Ma guarda, Io mi reputo un darwiniano convinto, nel senso che io sono del parere che, salvo distorsioni che ci possono stare, salvo eccezioni, salvo, però alla fine chi veramente si impegna, insomma, ha la coscienza a posto, determinato negli obiettivi, cioè alla fine prima o poi, se veramente se lo merita, prima o poi ce la fa. Cioè non il migliore, non il più bravo, ma chi si adatta, insomma. Esatto, bravissimo. Darwin, secondo me, in quella frase, non è la specie più forte a sopravvivere, ma quella più capace ad adattarsi, è una cosa del genere, lo ricordo bene. Però in quella frase, secondo me, era chiuso veramente la storia dell'umanità. Gianni, io ti ringrazio per aver chiuso così alto citando Darwin. Io vi faccio un sacco di in bocca al lupo e mi aspetto a questo punto, non l'invito per le nozze, ma un racconto delle nozze scritto da Alida, però. Che il lupo e va bene, ci proverò a farglielo scrivere. Ciao Gianni, grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao. Sono arrivati un sacco di messaggi che dicono: l'unico che ti può spronare sei solo te stesso. Invece Gianni ha dimostrato il contrario. 349-238-6666. Pietro ringrazia la moglie, anche lui, insomma, le donne sono la parte fondamentale della vita degli uomini che ci stanno ascoltando. Continuate a raccontare storie, raccontatene quante più potete, raccontatele vere se avete voglia o altrimenti inventatevele. Qui però solo storie che vi siano realmente accadute. Voi siete qui, @radio24.it. Se non avete voglia di raccontare, ascoltatevele e scaricatevi i podcast dal sito di Radio 24. Chiudo con Irene che dice, a proposito della sopravvivenza e della narrazione: Primo Levi scrisse che riuscì a sopravvivere ai lager, a sopravvivere ai lager raccontandosi mentalmente tutta la Divina Commedia. Grazie a quelli che hanno fatto questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina e Pietro Lacorte. Grazie soprattutto a Gianni e a Lida, direi. La storia di oggi era la loro e anche loro sono un punto rosso su una mappa. Sono Paolo, sono piemontese, la storia di domani è la mia e parla delle mie impressioni afghane. Questa è la mia storia ed io sono qui.